Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. L'innovazione in alcuni settori sembra di nicchia, ma poi porta ad allargare le braccia al mondo. Questa è l'unica strada per superare a volte il fermo del mercato interno e la difficoltà a fare quadrare fatturato. Per questo esistono strade privilegiate che mettono in contatto con l'estero. E oggi vi voglio parlare proprio di una di queste corsie preferenziali verso l'innovazione e l'export. È la seconda edizione per il Nord Best Award, concorso proposto dalla società di consulenza GCNP e dal CIMBA di Asolo, un consorzio in provincia di Treviso che unisce 34 tra le più brillanti università americane. Studenti MBA provenienti da tutto il mondo e PMI del Nord-Est si incontrano per mettere in atto i progetti di innovazione rivolti allo sviluppo internazionale del business. Quest'anno è il settore delle costruzioni in grande crisi che riceve attenzione per una ripresa grazie alle nuove idee. Il vincitore del Nord Best Award è Mirko Pegoraro di Geoplast Spa, con sede a Gran Torto, in provincia di Padova, leader nella produzione di prodotti e sistemi in plastica per l'edilizia, casseforme, acqua, verde, sport, ambiente. Ci spiega il progetto per cui ha vinto, l'espansione del mercato americano della linea di prodotti casseforme. L'idea è nata un po' nelle fiere internazionali che abbiamo fatto nei primi anni 2000, dove c'era stata ovviamente legato un po' all'evoluzione del mondo delle costruzioni il desiderio di un po' semplificare quello che era le casseforme per il getto del calcestruzzo in verticale. Perché è nata? Beh, l'idea è nata perché ritenevo complicato gli attuali metodi, pesanti da movimentare in cantiere e magari non adatti a un pubblico diciamo non espertissimo. E questo diciamo ci ha portato fortuna nel campo internazionale, perché oggi i paesi in via di sviluppo non hanno la fortuna di avere la manodopera specializzata un po' in cantiere che abbiamo noi in Italia o in paesi sviluppati come l'Italia, tipo la Germania o la Francia. Hanno manodopera non specializzata, quindi hanno bisogno di prodotti semplici, facili, leggeri, e quindi con la plastica, grazie appunto alla sua particolarità di dar forma e di dare anche incastro, quindi noi abbiamo brevettato una serie di incastri, siamo riusciti a fare questi prodotti estremamente semplici e molto appetibili per il mercato internazionale. Voi avete avuto quale aiuto, quali ostacoli e poi come avete fatto anche a farvi conoscere? Guardi, l'aiuto non ne abbiamo avuto, nel senso che sono partiti proprio da me, ho avuto questa idea e ho cominciato pian pianino con i fornitori nostri a valutare il tipo di materiale ideale per la produzione o il tipo di stampo che si poteva realizzare per queste forme. Noi nasciamo nel mondo delle materie plastiche e avevamo già altri prodotti nel campo delle costruzioni, quindi il mio ambiente era la costruzione. Quando avevo avuto l'idea, però, i capitali di chi sono stati e soprattutto c'è stato qualche ente, business angel, incubatore, qualcuno che vi ha dato una mano? Beh, nel campo dei prodotti non abbiamo avuto nessun aiuto, nel senso che l'abbiamo finanziati con le nostre risorse aziendali, perché comunque le banche in genere non finanziano progetti innovativi. Che cos'è che vi ha dato maggiore grattacapi? La commercializzazione, il farsi conoscere, la tradizione. Perché molto spesso quando si inventa qualcosa di nuovo, si fa qualcosa di innovativo, si sbatte contro un muro di tradizione che è duro da sconfiggere. Benissimo, a questo punto farsi conoscere è servito anche attraverso che cosa? Un'attività di marketing fatta in maniera tradizionale e non, nel senso che in maniera tradizionale possa essere fiere. E poi abbiamo avuto questo ultimamente, abbiamo avuto anche questo interessamento con questo contatto con il CIMBA, che fa parte di un gruppo di università americane, dove abbiamo sviluppato un'attività di marketing in quanto avevo questa curiosità di capire un po' il marketing da un altro punto di vista e in special modo da un punto di vista internazionale e americano. Poi è arrivato un premio durante una serata e la nostra azienda è stata premiata per questa attività e per questo prodotto che abbiamo fatto negli ultimi 5-6 anni. E questo è stato anche motivo di comunicazione, quindi di notorietà da parte nostra in questo momento, quindi comunque ha fatto piacere. Il fatturato, i numeri, possiamo già dirli? Sì, la nostra azienda siamo intorno ai 25 milioni di euro di fatturato, e ha una quota export intorno al 40%, speriamo di crescere velocemente, perché comunque il mercato italiano in questo momento qui è molto difficile. E quindi puntiamo molto a internazionalizzare l'azienda. Joachim Fetz di Rail SRL, con sede a Nanto in provincia di Vicenza, appartiene ora al gruppo tedesco KSB. Si occupa di sviluppo e diffusione di attività, tecnologie, componenti e servizi legati al controllo della movimentazione dell'automazione industriale. Ci spiega come ripensare ai prodotti per l'espansione sui nuovi mercati. Noi abbiamo il diritto di una tecnologia, di un motore abbastanza particolare, che è il motore a sincrono riluttanza, che permette a applicazioni normali tipo pompe, ventole eccetera un risparmio energetico superiore a qualsiasi altra tecnologia che esiste in questo momento. Il problema della nostra azienda è sempre stata la poca riconoscibilità sul mercato, in quanto siamo un'azienda piccola, vicentina, abbastanza locale, e quindi non abbiamo accesso ai mercati grandi, quindi non abbiamo il nome, e questa è stata un attimo la situazione iniziale, che si è trascinata dal 2003-2004. Quindi a voi è venuto in mente che cosa fondamentalmente? La parte innovativa della tecnologia è proprio l'utilizzo di una tecnologia vecchia per applicazioni nuove a livello di risparmio energetico. Un esempio pratico: se uso una pompa per l'acqua in un processo industriale, tipicamente questa pompa lavora sempre al punto di massima potenza. Con la nostra tecnologia e una regolazione della portata della pompa in base alle esigenze del processo, si possono risparmiare fino al 70%, e questo è stato provato con clienti campioni da università, fino al 70% dell'energia consumata all'anno. E questi sono valori che fanno sì che l'investimento in una tecnologia del genere ritorni in meno di un anno. Ma prima di arrivare a questo, chi vi ha aiutato e che cosa invece vi ha ostacolato, diciamo? A noi siamo sempre rimasti abbastanza da soli, abbiamo provato a sviluppare da soli questa idea, finché non siamo stati acquistati da una multinazionale tedesca proprio nel settore delle pompe, che ha creduto e ha spinto fortemente questa tecnologia. Quindi adesso non siamo più l'azienda piccola di 40 persone, ma siamo all'interno di un gruppo di 16.000 persone con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, che ha creduto in questa tecnologia e che è diventata anche il nostro cliente più grande. Ecco, quello che fate voi è quello di poi internazionalizzare. Come fate ad arrivare in altri paesi? In altri paesi arriviamo attraverso anche la rete di vendita abbastanza capillare della nostra capogruppo, che in particolare nel settore delle pompe, anche ventole, compressori, la legislazione porta ad avere sempre delle soluzioni più efficienti, quindi più risparmiosi, e la capillarità della rete vendita della nostra casa madre ci aiuta di arrivare in Europa. In Italia siamo abbastanza soli, e quindi ci dobbiamo inventare un attimo una strategia per penetrare ancora meglio il mercato. Ecco, però l'inizio è fatto. Ecco, e come è stata l'idea di arrivare a questo premio per l'innovazione? Noi lavoriamo già da tempo in collaborazione col CIMBA, che è una scuola di business ad Asolo, e quella è collegata anche, partecipa anche l'anno scorso, ha partecipato a questo award Nordbest, e noi con il nostro progetto che abbiamo seguito con i studenti del CIMBA siamo entrati in questo concorso. E quindi questo cosa ha dato, insomma, quali sono arrivate, diciamo, che cosa è piovuto dal cielo grazie a questa partecipazione? Sicuramente visibilità in particolare nella zona Nord-Est, dove abbiamo un ambiente imprenditoriale molto frazionato, tante medie e piccole aziende, e anche, diciamo, a livello di input da parte dei studenti, una nuova prospettiva come poter piazzare il nostro prodotto, la nostra soluzione in mercati con metodi magari diversi da quelli proseguiti finora. Ecco, come è strutturata la vostra rete vendite, per capire ovviamente come si fa come piccola media impresa a mettere in piedi una parte commerciale? Allora, noi abbiamo dei venditori esterni e un back office evidentemente che gestisce all'interno tutte le ordini, ma abbiamo capito che è anche importante, abbiamo capito meglio che il target customer magari non è l'impresa che costruisce macchine per terzi, perché lei stessa, il nostro cliente OEM, dovrebbe convincere il cliente finale al risparmio energetico, ma ora puntiamo più sugli energy manager delle imprese che magari hanno processi con alto consumo energetico, di modo che li convinciamo a provare la tecnologia che anche per loro nel giro di 1-2 anni può risparmiare quanta energia tanto quanto l'investimento iniziale. Quindi fondamentalmente questo vi aiuta a diciamo a aumentare, a creare un circolo virtuoso per la vostra azienda. Esatto, quindi da una parte spingere i clienti OEM, quindi Original Equipment Manufacturer, quelli che usano a grande scala i prodotti in maniera potenziale, ma anche creare il pull dal mercato, da clienti che sono convinti che questa tecnologia veramente può dare un grande beneficio. E ora parola d'ordine, innovare. Queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog è su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino.